Capitolo 3. L'infanzia di Molly Gibson. 16 anni prima di quest'epoca, l'intera Hollingford era stata scossa alle sue fondamenta dalla notizia che Mr. Hall, l'abile dottore che si era preso cura dei suoi abitanti in tutti i loro giorni, aveva intenzione di assumere un socio. Era stato inutile ragionare con loro sull'argomento. Così Mr. Browning, il vicario, Mr. Sheepshanks, l'intendente di Lord Camnor e lo stesso Mr. Hall, i teorici maschi di questa piccola comunità, avevano abbandonato il progetto, pensando che il che sarà sarà si sarebbe dimostrato più efficace di qualsiasi altro espediente nel tacitare i malumori. Mr. Hall aveva rivelato ai suoi fidati pazienti che anche con gli occhiali più potenti la sua vista non era più affidabile. E loro stessi avrebbero potuto sincerarsi del fatto che il suo udito era molto difettoso, sebbene su questo punto l'uomo si dicesse ostinatamente d'accordo con loro e si facesse spesso sentire mentre condannava l'attuale distrazione nella comunicazione popolare, definendola come scrittura su carta assorbente con le parole che si sovrappongono. E più di una volta Mr. Hall aveva avuto attacchi di una strana natura. Lui usava chiamarli reumatismi, ma le cure che si prescriveva da solo erano più adatte alla gotta. E questa circostanza le aveva impedito di rispondere immediatamente anche a chiamate d'urgenza. Però, per quanto cieco, sordo e affetto da dolori reumatici, costui era Mr. Hall, il medico che sapeva curare tutti i loro malanni, a meno che nel frattempo essi non ne morissero, e non aveva il diritto di parlare del fatto che stava invecchiando e che aveva bisogno di un socio. L'uomo continuò comunque a lavorare, a pubblicare su riviste mediche, a leggere certificati e dichiarazioni, a vagliare caratteri e requisiti. E proprio quando le anziane signorine di Hollingford pensarono di aver convinto i loro coetanei del fatto che Mr. Hall era più giovane che mai, egli li sorprese tutti, mandando il suo nuovo socio, Mr. Gibson, a far loro visita. E iniziando subdolamente, come sostennero queste signore, a introdurlo alla professione. «E chi è questo Mr. Gibson?» chiedevano le donne. E solo un eco poteva rispondere alla domanda, se le aggradava, perché nessun altro lo faceva. Nessuno, neanche coloro che facevano parte della sua vita, sapeva qualcosa in più in merito ai suoi trascorsi, di quanto la gente di Hollingford avrebbe potuto scoprire il primo giorno che lo vide. Che era alto, serio, piuttosto affascinante e abbastanza snello da poter essere definito una figura molto signorile, in quei giorni in cui doveva ancora iniziare la moda della cristianità muscolare, che parlava con un lieve accento scozzese e che, come osservò un'ottima signora, la sua conversazione era davvero banale, intendendo dire che era un tipo sarcastico. A proposito delle sue origini, delle sue parentele e della sua istruzione, la congettura preferita a Hollingford era che egli fosse il figlio illegittimo di un duca scozzese e di una francese, e le ragioni per tale ipotesi erano le seguenti. Parlava con accento scozzese, perciò doveva essere scozzese. Aveva un aspetto signorile, una figura elegante, e tendeva, sostenevano i suoi detrattori, a darsi delle arie. Di conseguenza suo padre doveva essere stato una persona di rango e partendo da questa premessa niente era più facile che far salire a questa idea tutta la scala gerarchica della nobiltà: baronetto, barone, visconte, conte, marchese, duca. Non osavano andare più in alto, per quanto un'anziana signora esperta di storia inglese si azzardò a osservare che credeva che uno o due steward non fossero sempre stati del tutto corretti nel loro comportamento, ed ella immaginava che simili cose accadessero nelle famiglie. Ma nell'opinione comune, il padre di Mr. Gibson era sempre rimasto un duca, niente di più. Sua madre poi doveva essere stata francese perché gli aveva i capelli così neri ed era di carnagione olivastra e perché era stato a Parigi. Tutto questo poteva essere vero oppure no. Nessuno lo seppe mai e scoprì mai su di lui qualcosa in più di quanto Mr. Hall raccontò, ovvero che le sue qualifiche professionali erano ottime come la sua moralità e che entrambe erano nettamente superiori alla media. Come Mr. Hall si era preoccupato di verificare prima di presentarle ai suoi pazienti. La popolarità a questo mondo è transitoria come la gloria, come Mr. Hall scoprì prima della fine del primo anno di società. A quel punto egli aveva ottenuto tanto tempo libero da potersi occupare della propria gotta e curare la propria vista. Il medico più giovane era passato in vantaggio. Quasi chiunque ormai mandava chiamare Mr. Gibson, persino nelle grandi dimore, persino alle torri, la più grande di tutte, dove Mr. Hall aveva introdotto il socio con paura e preoccupazione, con un'ansia inespressa a proposito del suo agire e dell'impressione che gli avrebbe fatto su Milord il conte e su Milady la contessa. Alla fine del primo anno, Mr. Gibson veniva ricevuto con tutto l'accogliente rispetto per le sue abilità professionali, che era sempre stato riservato a Mr. Hall. Anzi, e questo fu un po' troppo persino per il buon umore del gentile anziano dottore, Mr. Gibson era addirittura stato invitato una volta a cenare alle torri, a cenare con il magnifico Sir Astley, il capo dell'ordine dei medici. A dire il vero era stato invitato anche Mr. Hall, ma proprio quel giorno egli si trovava a letto a causa della gotta. Da quando aveva un socio aveva dato il via libera allo svilupparsi dei reumatismi e non era stato in grado di partecipare. Il povero Mr. Hall non si riebbe mai da questa mortificazione. In seguito si concesse di diventare duro d'orecchi e debole di vista e rimase spesso nei dintorni di casa durante i 2 inverni che gli restarono da vivere. Mandò a chiamare una nipote orfana perché gli facesse compagnia negli anni della vecchiaia. Lui, quel vecchio scapolo misogino, fu presto grato per la presenza allegra della graziosa e paffutella Mary Preston, che era buona, intelligente e niente di più. La giovane aveva stretto amicizia con le figlie del vicario, Mr. Browning, e Mr. Gibson aveva iniziato a trovare il tempo di frequentarle intimamente tutte e tre. Hollingford speculò a lungo su quale delle ragazze sarebbe divenuta la signora Gibson. E si dispiacque assai quando le chiacchiere sulle possibilità e pettegolezzi, sulle probabilità inerenti al matrimonio del giovane avvenente medico, finirono nel modo più naturale del mondo, ovvero quando lui sposò la nipote del suo predecessore. In quell'occasione le due signorine Browning non diedero a vedere di rischiare di ammalarsi di consunzione, sebbene le loro espressioni e i loro modi diventassero oggetto di attenzione. Al contrario, il giorno delle nozze le due si diedero a una chiassosa allegria e fu poi la povera Mrs. Gibson a morire di consunzione, 4 o 5 anni dopo il matrimonio, 3 anni dopo la morte del prozio e quando la sua unica figlia Molly aveva solamente 3 anni. Mr. Gibson non parlava molto del dolore che si suppone avesse provato per la perdita della moglie. A dire la verità, egli evitò qualsiasi dimostrazione di simpatia e si alzò in fretta per lasciare la stanza quando Miss Phoebe Browning lo incontrò la prima volta dopo il lutto e scoppiò in un'incontrollabile ondata di lacrime che minacciò di degenerare in un attacco isterico. Miss Browning disse in seguito che la sorella non poté mai perdonargli la durezza dimostrata in quella circostanza, ma dopo una quindicina di giorni ella arrivò a scambiare parole molto aspre con Mrs. Goodenough, la quale si era arrischiata, sottovoce, a dubitare che Mr. Gibson fosse un uomo capace di sentimenti forti. Giudicava così, desiderando quanto fosse basso il nastro di crespo che portava intorno al cappello, che avrebbe dovuto coprirlo, e che invece lasciava vedere 3 pollici buoni di castorino. E nonostante tutto, Miss Browning e Miss Phoebe si consideravano le più care amiche di Mr. Gibson, in virtù del loro rapporto con la moglie morta, e avrebbero volentieri assunto un ruolo materno nei confronti della bambina, se ella non fosse stata sorvegliata da quel guardingo drago che era Betty, la balia, gelosa di ogni interferenza che potesse frapporsi fra lei e la sua protetta. E ostile e sgradevole, specialmente nei confronti di tutte quelle signore che, potendo vantare età, rango o vicinanza opportune, ella credeva pronte a far gli occhi dolci al padrone. Molti anni prima dell'inizio di questa storia, la posizione di Mr. Gibson, sia socialmente che professionalmente, sembrava definita. Era un vedovo ed era probabile che restasse tale. I suoi affetti domestici erano concentrati sulla piccola Molly, ma anche con lei, nei loro momenti più privati, egli non dava sfogo all'espressione dei suoi sentimenti. L'appellativo più tenero che le dedicava era Occhetta, ed egli si divertiva a confondere la mente infantile di lei con le sue burle. L'uomo sembrava quasi disprezzare le persone emotive, e questo dipendeva dalla sua analisi medica delle conseguenze dannose per la salute di sentimenti incontrollabili. Ingannava se stesso credendo che la sua ragione fosse padrona di ogni cosa, perché lui non era mai caduto nell'abitudine di esprimersi su argomenti che non fossero quelli puramente intellettuali. Molly tuttavia si faceva guidare dalle proprie intuizioni. Anche se suo papà rideva di lei, la confondeva e la prendeva in giro, in un modo che le signorine Browning definivano fra loro, quando erano sole, veramente crudele. Molly viveva i suoi piccoli dolori e i suoi piaceri e li riversava nelle orecchie di papà anche prima di confidarli a Betty, quella brontolona dal cuor d'oro. La bambina imparò a comprendere bene il padre e i due trascorrevano il tempo insieme deliziosamente, un po' canzonandosi, un po' seriamente, ma in generale in nome di un'amichevole confidenza. Mr. Gibson aveva tre domestiche. Betty, una cuoca e una ragazza che avrebbe dovuto svolgere le mansioni di cameriera, ma dipendeva da entrambe le donne più anziane e di conseguenza ne vedeva delle belle. Tre domestiche non sarebbero state necessarie se non fosse stata abitudine di Mr. Gibson, come di Mr. Hall prima di lui, prendere due allievi, come venivano chiamati nel linguaggio cortese di Hollingford, ovvero a conti fatti i due apprendisti, che erano legati da un contratto e pagavano una somma considerevole per imparare il mestiere. Costoro vivevano in casa e occupavano una posizione scomoda, ambigua o, come sosteneva non a torto Miss Browning, anfibia. Consumavano i pasti con Mr. Gibson e Molly, sentendosi così terribilmente fuori posto. Mr. Gibson non era tipo da far conversazione e odiava dover parlare per costrizione. Tuttavia qualcosa in lui lo faceva sobbalzare, come se i suoi desideri non venissero compiuti appieno. Quando, tolta la tovaglia, i due goffi ragazzi si alzavano con gioiosa alacrità, gli facevano un cenno con la testa, da interpretarsi come un inchino. Si scontravano nel tentativo di uscire in fretta dalla sala da pranzo e poi li si udiva sfrecciare lungo il corridoio che portava all'ambulatorio, soffocando le risate. Il fastidio che egli provava per questo spiacevole senso di un dovere svolto in modo imperfetto rendeva più amaro il suo sarcasmo in merito alla loro inefficienza, alla loro stoltezza e ai loro pessimi modi. Oltre a impartire una diretta istruzione professionale, l'uomo non sapeva cosa fare con queste successioni di coppie di giovani, la cui missione sembrava essere farsi tormentare consapevolmente dal loro maestro e inconsapevolmente tormentare lui. Un paio di volte Mr. Gibson aveva rinunciato a prendere un nuovo allievo, sperando di liberarsi da quell'incubo, ma la sua reputazione di ottimo medico si era diffusa così rapidamente che le rette, che egli riteneva proibitive, venivano pagate con entusiasmo, affinché il giovane in questione potesse debuttare nella vita con il prestigio di essere stato un discepolo di Gibson di Hollingford. Ma quando Molly, dalla bambina che era stata, divenne una ragazzina, quando ebbe più o meno 8 anni, suo padre percepì l'imbarazzo di farle consumare colazione e cena così spesso con i suoi allievi e senza la sicurezza che fosse presente anche lui. Per disfarsi di questo problema, più che a vantaggio di una reale istruzione che potesse venirle impartita, egli assunse una signora rispettabile, figlia di un commerciante della città che aveva lasciato una famiglia indigente, affinché venisse ogni mattina prima di colazione e restasse insieme a Molly fino a sera, finché lui non fosse rincasato, o se lui era trattenuto fuori, finché non fosse giunta per la bambina l'ora di andare a letto. Ora, Miss Eyre, disse il dottore riassumendo le istruzioni il giorno prima che lei iniziasse il lavoro, ricordate questo. Dovrete preparare un buon tè per i giovanotti e controllare che mangino con comodo. E avete detto di avere 35 anni, mi pare. Tentare di farli conversare. Con raziocinio temo che sia oltre le vostre capacità o quelle di chiunque altro, ma insomma, farli parlare senza che balbettino o ridacchino. Non insegnate troppe cose a Molly. Lei deve cucinare, leggere, scrivere e far di conto. Ma voglio che rimanga una bambina. E se desidererò che impari di più, ci penserò io stesso. Dopotutto, non sono certo che leggere o scrivere siano necessari. Molte brave donne si sposano mettendo una croce al posto del nome. È solo una diluizione del senno di una madre, secondo me. Ma tuttavia dobbiamo attenerci ai pregiudizi della società, Miss Eyre, perciò le insegnerete a leggere. Miss Eyre ascoltò in silenzio, perplessa ma determinata a obbedire alle istruzioni del dottore, la cui gentilezza lei e la famiglia avevano ottime ragioni di conoscere. Preparò dei tè forti, aiutò con liberalità i due giovani in assenza, così come in presenza di Mr. Gibson, e trovò il modo di sciogliere loro la lingua ogni volta che il padrone non c'era, parlando con loro di argomenti frivoli, nel suo modo piacevole e familiare. Insegnò a Molly a leggere e a scrivere, ma tentò con onestà di limitarla in qualsiasi altra disciplina. Fu solo lottando e insistendo con forza che un poco per volta Molly persuase il padre a consentirle di prendere lezioni di francese e di disegno. Egli era sempre troppo timoroso che lei diventasse troppo istruita, ma non avrebbe dovuto allarmarsi. Gli insegnanti che visitavano cittadine piccole come Hollingford 40 anni fa non erano così esperti nelle loro materie. Una volta alla settimana Molly seguiva le lezioni di danza nella sala da ballo della principale locanda della città, la George, e pur scoraggiata dal padre a intraprendere un qualsiasi sforzo intellettuale, leggeva qualunque libro le capitasse a tiro, quasi con lo stesso entusiasmo che avrebbe provato se le fosse stato proibito. Considerata la sua posizione, Mr. Gibson vantava una biblioteca insolitamente ben fornita. La sezione medica era inaccessibile a Molly perché era chiusa nell'ambulatorio, ma ella lesse o tentò di leggere qualunque altro libro. In estate il suo studiolo era l'albero di ciliegio sul quale si macchiava di verde il vestito, cosa che, come detto in precedenza, portava Betty all'esaurimento. Nonostante questo verme nascosto nel bocciolo, Betty era in tutta apparenza forte, attenta e attiva. Ella era la sola spina nel fianco di Miss Eyre, che altrimenti sarebbe stata felicissima di aver trovato un impiego adeguato e ben pagato, e proprio quando ne aveva maggiore bisogno. Ma Betty, per quanto fosse teoricamente d'accordo con il padrone, quando egli le aveva parlato della necessità di assumere un'istitutrice, si opponeva con veemenza a qualsiasi riduzione della sua autorità e della sua influenza sulla figliola che le era stata affidata, sua croce delizia fin dal giorno della morte di Mrs. Gibson. Sin dall'inizio ella divenne il censore di tutto ciò che Miss Eyre diceva e faceva e neanche per un momento accondiscese a nascondere la sua disapprovazione. Nel profondo del cuore non poteva fare a meno di rispettare la pazienza e la devozione della buona signora, perché Miss Eyre era una signora nel miglior significato del termine, anche se il suo rango a Hollingford non era altro che quello della figlia di un commerciante. Eppure Betty le ronzava intorno con la tormentosa pertinacia di una zanzara, sempre pronta a scovarne i difetti se non a pungerla. La sola difesa di Miss Eyre proveniva dalla direzione che meno ci si sarebbe aspettati, dalla sua allieva, che Betty prendeva a pretesto delle proprie critiche, immaginandola come una personcina vessata. Ma molto presto Molly si rese conto di questa ingiustizia e subito dopo iniziò a rispettare Miss Eyre per la silenziosa sopportazione di ciò che evidentemente le arrecava un dolore maggiore di quanto Betty credesse. Mr. Gibson era stato per la sua famiglia un amico nel momento del bisogno, perciò Miss Eyre si astenne dalle lamentele piuttosto che dargli un disturbo. Ed ebbe la sua ricompensa. Betty era solita offrire a Molly ogni sorta di piccola tentazione pur di farle dimenticare i desideri di Miss Eyre. Molly resisteva con costanza e si accingeva faticosamente ai suoi compiti di cucito e all'aritmetica. Betty faceva battute pesanti all'indirizzo di Miss Eyre. Molly la guardava con estrema gravità, come a richiedere una spiegazione per un discorso incomprensibile. E non c'è nulla di tanto disarmante per un burlone che chiedergli di tradurre i suoi scherzi in una lingua intellegibile di tutti i giorni ed indicare dove stia l'ironia. Di tanto in tanto Betty sbottava e si rivolgeva a Miss Eyre con impertinenza. Ma quando questo avvenne in presenza di Molly, la ragazzina sfogò una tale violenta e appassionata difesa della sua silenziosa e tremante istitutrice che persino la stessa Betty perse coraggio, per quanto decidesse di interpretare la rabbia della piccola come uno scherzo ben riuscito e tentasse di persuadere Miss Eyre in persona a partecipare al divertimento. «Benedetta bambina, si potrebbe pensare che io sia una gatta affamata e lei una passerotta con le alucce agitate, gli occhietti in fiamme e il becco pronto a pizzicarmi, solo perché mi sono per caso avvicinata al suo nido. Eh no, bambina, Se preferisci startene chiusa in una stanzetta sgradevole a imparare cose che non hanno nessuna utilità, invece di scorazzare sul carretto di John Donkin, peggio per te, non è affar mio. È una piccola megera, non è vero? Sorrise Miss Eyre al fine del suo discorso. Ma la povera istitutrice non ci trovava niente da ridere. Che Molly fosse paragonata a una passerotta era una sconfitta per lei. Ella era sensibile e coscienziosa e conosceva per esperienza familiare le cattive conseguenze di un carattere incontrollato. Così iniziò a rimproverare Molly per aver sfogato la sua rabbia e la bambina trovò dura quella reprimenda dovuta a ciò che lei considerava una giusta collera nei confronti di Betty. Ma dopo tutto questi furono solo piccoli dolori in un'infanzia molto felice. Capitolo 4. I vicini di Mr. Gibson. Molly crebbe tra queste quiete persone, in una vita calma e monotona, priva di eventi più memorabili di quello riportato, essere stata dimenticata alle torri, fino a che non fu prossima ai 17 anni. Era diventata una delle visitatrici della scuola, ma non era mai più tornata alla festa annuale alla grande casa. Era facile trovare una qualche scusa per starne lontana e il ricordo di quel giorno non era tutto sommato gradevole, anche se lei spesso pensava a quanto le sarebbe piaciuto rivedere i giardini. Lady Agnes si era sposata, solo Lady Harriet era rimasta a casa. Lord Hollingford, il figlio più grande, aveva perso la moglie e passava molto più tempo alle torri da quando era rimasto vedovo. Era un uomo alto e sgraziato, considerato orgoglioso quanto la madre, la contessa, ma in realtà era solo timido e restio a intraprendere discorsi banali. Non sapeva cosa dire a persone che avevano abitudini e interessi quotidiani diversi dai suoi. Sarebbe stato molto felice di ricevere un manuale di conversazione futile e avrebbe imparato bene le sue frasi con diligenza e buon umore. Spesso invidiava la parlantina del garrulo padre, che era lieto di chiacchierare con chiunque ed era perfettamente inconsapevole dell'incoerenza dei suoi discorsi. Ma a causa della timidezza e della sua innata riservatezza, Lord Hollingford non era un uomo popolare, sebbene fosse molto gentile, di carattere semplice, e le sue conoscenze scientifiche fossero così considerevoli da meritargli un'ottima nomea nella Repubblica Europea degli Uomini Dotti. In questo senso, Hollingford era fiera di lui. Gli abitanti erano consapevoli che il robusto, serio e goffo erede del feudo era molto stimato per le sue competenze e che aveva fatto una o due scoperte, anche se non sapevano con certezza in quale campo. Era però rassicurante indicarlo ai forestieri che visitavano la cittadina dicendo «Ecco Lord Hollingford, il celebre Lord Hollingford, sapete? Dovete averne sentito parlare, è così scientifico!» Se i forestieri conoscevano il suo nome, sapevano anche perché fosse famoso, altrimenti 10-1 che avrebbero finto di saperlo, nascondendo così non solo la loro ignoranza, ma anche quella dei loro anfitrioni in merito all'esatta natura della fonte di quella reputazione. Egli era rimasto vedovo con 2 o 3 figli maschi e si erano lontani in una scuola, così che potevano dare alla dimora in cui egli aveva trascorso la vita coniugale solo una leggera apparenza di casa. Di conseguenza, l'uomo passava la maggior parte del tempo alle torri. Lì la madre era orgogliosa di lui e suo padre gli voleva molto bene, anche se ne era un po' intimidito. I suoi amici erano sempre accolti volentieri da Lord e Lady Kemnor. Il primo, in verità, era solito dare il benvenuto a chiunque dappertutto. Ma che Lady Kemnor fosse sinceramente legata all'esimio figlio era testimoniato dal fatto che gli consentisse di invitare alle torri ogni tipo di persone. Ogni tipo di persone significava in realtà coloro che si erano distinti nel campo della scienza e dell'erudizione, indipendentemente dal loro rango. E bisogna confessare anche indipendentemente dalla loro attenzione alle buone maniere. Mr. Hall, il predecessore di Mr. Gibson, era sempre stato ricevuto con condiscendenza da Milady, che lo aveva trovato nel ruolo di medico di famiglia quando era arrivata alle torri all'epoca del suo matrimonio. Ma lei non aveva mai pensato di interferire con la sua abitudine di consumare i pasti, se ne aveva bisogno nella stanza della governante, non con la governante, bien entendu. Il rassicurante, intelligente e robusto dottore dalla faccia rossa avrebbe comunque preferito così, se gli fosse stato chiesto di scegliere, cosa che non avvenne mai, piuttosto che mangiare il suo spuntino, come lo chiamava lui, insieme a Milord e Milady nella sontuosa sala da pranzo. Naturalmente, se un pezzo grosso della medicina, come Sir Astley, era chiamato da Londra per occuparsi della salute della famiglia, ci si aspettava da lui e dall'attendente medico locale che invitasse Mr. Hall a cena, in modo formale e cerimonioso, e in tali occasioni Mr. Hall seppelliva il mento in voluminose pieghe di mussola bianca, si infilava i pantaloni neri al ginocchio con fiocchi di nastro ai lati, le calze di seta e le scarpe con la fibbia, o comunque si vestiva in modo eccessivamente scomodo e usciva in pompa magna nel calesse della George, consolandosi negli ultimi recessi del cuore per il disagio che gli toccava sopportare, con l'idea di quanto sarebbe stato piacevole il giorno successivo far risuonare nelle orecchie degli egregi signori che era suo costume frequentare. Ieri a cena il conte ha detto, oppure la contessa ha osservato, oppure ancora sono stato sorpreso di sentire mentre ero a cena al Rettori ieri, ma in qualche modo le cose erano cambiate da quando Mr. Gibson era diventato il dottore per eccellenza a Hollingford. Le signorine Browning pensavano che questo dipendesse dal fatto che egli aveva un aspetto elegante e modi così distinti. Mrs. Goodenough, per via delle sue relazioni aristocratiche, il figlio di un duca scozzese, mia cara, non importa da quale parte della coperta. Ma una cosa era certa: per quanto egli chiedesse frequentemente a Mrs. Brown di dargli qualcosa da mangiare nella stanza della governante, non aveva tempo per il chiasso e le cerimonie dei pranzi con Milady, egli era sempre il benvenuto nelle più eccelse cerchie di visitatori della casa. Se lo desiderava, poteva pranzare con un duca, ammesso che un duca fosse atteso alle torri. Il suo accento era scozzese, non provinciale. Non aveva una sola oncia di carne superflua attaccata alle ossa, e la snellezza va molto di pari passo con l'eleganza. La sua carnagione era olivastra, i suoi capelli neri. In quei giorni, si era nella decade successiva alla conclusione della Grande Guerra Continentale. Avere la carnagione olivastra e scura era già di per sé un segno distintivo. Egli non era gioviale, come Milord sottolineava con un sospiro, ma era Milady che incoraggiava gli inviti. Era parco di parole, intelligente e lievemente sarcastico, di conseguenza era perfettamente presentabile. Il suo sangue scozzese, del fatto che avesse origini scozzesi non c'era motivo di dubitare, gli dava giusto quella sorta di spigolosa dignità che induceva chiunque a trattarlo con rispetto, perciò da quel punto di vista era sicuro. La magnificenza dell'essere invitato di tanto in tanto a cena alle torri in qualità di ospite gli diede per anni un piacere molto lieve, ma era una formalità da affrontare per via della sua professione, senza alcuna idea di gratificazione sociale. Ma quando Lord Hollingford ritornò per fare delle torri la propria casa, le cose cambiarono. Mr. Gibson sentì apprese cose che gli interessavano davvero e questo diede un sapore rinnovato alle sue letture. Di quando in quando egli incontrava le personalità più importanti del mondo scientifico, uomini dall'aspetto bizzarro e dal cuore semplice, che prendevano molto sul serio le loro particolari materie e avevano ben poco da dire in merito ad altri argomenti. Mr. Gibson si ritrovò capace di apprezzare queste persone e percepì anche che loro davano valore alla sua stima, perché era elargita con onestà e intelligenza. In verità, gradualmente, egli iniziò a inviare i propri contributi alle riviste mediche di più forte tendenza scientifica e così, un po' per il fatto di ricevere, un po' per il fatto di offrire informazioni e un pensiero accurato, alla sua vita si aggiunse un nuovo aroma. Non c'erano molte occasioni di incontro tra Lord Hollingford e lui. Il primo era troppo silenzioso e timido e l'altro troppo occupato per cercare la compagnia reciproca, con la perseveranza necessaria a liberarsi della distinzione di rango che impediva una frequentazione assidua. Ma ognuno di loro era veramente contento di trovarsi in contatto con l'altro. Ciascuno poteva contare sul rispetto e sulla simpatia dell'altro con una certezza sconosciuta a molti che essi stessi definivano amici, e questa era una fonte di felicità per entrambi. Di sicuro per Mr. Gibson anche di più, perché per lui la compagnia intelligente e colta era più limitata. In verità non c'era nessuno che potesse eguagliarlo tra gli uomini che frequentava, e questa egli l'aveva percepita come un'influenza deprimente, per quanto non avesse mai riconosciuto la causa della propria insoddisfazione. C'era Mr. Ashton, il vicario, successore di Mr. Browning, un uomo davvero buono e gentile, ma privo di originalità di pensiero. La sua abituale cortesia e la sua mente indolente lo portavano a dirsi d'accordo con qualunque opinione che non fosse manifestamente eterodossa e a esprimere banalità nel modo più signorile. Un paio di volte Mr. Gibson si era divertito a trascinarlo in compiacenti ammissioni perfettamente convincenti e in affermazioni curiose ma indubitabili, per poi abbandonarlo in una palude di perplessità eretica. Ma allora il dolore e la sofferenza dimostrate da Mr. Ashton nello scoprire all'improvviso in quale impiccio teologico si era lasciato portare e il suo biasimarsi per le ammissioni precedenti erano stati così forti che Mr. Gibson aveva perso il senso del divertimento ed era così prontamente e con tutta la sua buona volontà ritornato ai 39 articoli, unica maniera di consolare la coscienza del vicario. In qualunque altro argomento, a eccezione dell'ortodossia, Mr. Gibson gli era decisamente superiore, ma a quel punto, quell'ignoranza sulla maggior parte dei temi impedì che una blanda coscienza raggiungesse un risultato che potesse stupirlo.